lontana da me, lontana dal mio cuore. Dall'altra parte del mondo mi scrivi ed io ti scrivo. Ti giuro che quando tornerai, e so che tornerai, promesso che quando tornerai io ti regalerò una rosa, rosa, rosa. È meglio se sia rossa la rosa, rosa, rosa. Oggi è stata una giornata molto monotona. Ho preso la macchina e sono uscito per fare qualcosa di diverso. Mi sono accorto di una cosa davvero molto speciale. Adesso so che se sterzi a destra c'è Dante nella candida rosa, rosa, rosa. C'è Dante in quella candida rosa, rosa, rosa. Oggi ho visto il tuo sorriso impresso su un cellulare. Ho visto quanto sia deciso a volersene andare. Ho visto una rosa un po' spinosa, o forse anche troppo spinosa. Ricordo di quanta gente che riposa in nome di quella rosa, rosa, rosa. È andata in nome di quella rossa rosa, rosa, rosa. C'è Dante nella candida rosa, rosa, rosa. Sì, è andata in nome di quella rossa rosa, rosa, rosa. Riposa in nome di quella rosa, rosa, rosa. Sì, è andata in nome di quella rossa rosa, la rosa, la rosa, la rosa. La rosa, la rosa, la rossa rosa, la rossa rosa, la rosa, la rosa, la rossa rosa, la rossa rosa, la rosa, la rosa, la rossa rosa, la rossa rosa, la rosa, la rosa, la rossa rosa, la rossa rosa, la rosa, la rosa, la rossa rosa, la rossa rosa, la rosa, la rosa, la rossa rosa, la rossa rosa.